Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La musica esprime ciò che non può essere detto e ciò su cui è impossibile rimanere in silenzio. Parola di Monsieur Victor Hugo. Non serve essere musicisti per comprendere il valore intrinseco e culturale di una sfilza di note opportunamente messa una dopo l'altra a formare una compiuta, perfetta melodia. Suoni capaci di scuotere gli animi, persino di risvegliare le coscienze. Fin dall'antichità, il patrimonio culturale dell'Occidente è stato tramandato anche sotto forma di canzone. I bardi cantavano le gesta degli eroi, che era proprio grazie a quel canto, a quel rito di ascolto collettivo, che i popoli apprendevano le tradizioni e persino le ragioni profonde del loro agire quotidiano. Una funzione prettamente sociale, ancor prima che di diletto personale. Ma il piacere del puro ascolto non è mai venuto meno, in nessuna epoca. Che si tratti di rock, di elettronica o di un quartetto d'archi non ha importanza. Che sia lenta o incalzante, malinconica o spumeggiante, flebile oppure esplosiva, la musica sa rapirti in ognuno di questi casi. La musica, cioè la vera musica, non solo il rock and roll, ti sceglie. È lì che vive nella tua macchina o quando sei solo con la tua cuffia, vedi ponti immensi e panoramici, hai in testa cori angelici. È un luogo assolutamente diverso dall'immenso e benevolo grembo dell'America. Lo spezzone è tratto da Almost Famous, film autobiografico del 2001, in cui il regista Cameron Crowe ripercorre gli albori della sua carriera, iniziata non dietro la macchina da presa come verrebbe naturale pensare, bensì in qualità di giornalista musicale. A battezzarlo fu proprio Lester Banks, dalla cui bocca sono uscite le parole che avete appena sentito. Banks è uno che di musica nella sua vita ne ha masticata parecchia, essendo stato uno dei critici musicali più celebri e controcorrente mai apparsi. Famoso soprattutto per il suo lavoro in riviste come Cream, il New Musical Express, Village Voice e l'intramontabile Rolling Stone, è amico di rockstar come Patti Smith e i Ramones, e si è dilettato lui stesso a comporre una discreta quantità di canzoni. Una vita intera votata alla meraviglia delle sette note. Anche il nostro primo protagonista di oggi è un uomo che ha dedicato e tuttora dedica la propria vita alla giusta sacrosanta causa della musica. Nel suo caso non si tratta semplicemente di un mestiere, ma di un tassello indispensabile alla sopravvivenza, di un elemento la cui assenza rende la vita addirittura intollerabile. Se è vero che la musica su grande scala ha una funzione di collante sociale e costituisce una buona fetta del nostro patrimonio culturale, è anche vero che spesso, cambiando per un attimo punto di vista, tutto si riduce a una questione squisitamente intima e personale. L'atto di creare la musica, per certe persone, coincide con l'idea di costruire un mondo a parte, un rifugio dalle insidie del mondo dove rintanarsi in attesa che passi la tempesta. La musica come baluardo di pace interiore, come zona franca, come luogo privilegiato di elaborazione dei propri personalissimi dissidi interiori, gli stessi che agitano il sonno del nostro primo protagonista di oggi. Lui è un musicista, anzi, è un puro e precocissimo talento musicale. Il suo nome è Mike Oldfield. Mike Oldfield. Se davvero esiste un destino, quello di Mike Oldfield è scritto a partire dal suo luogo di nascita, Reading, nella contea del Berkshire, una quarantina di miglia a est di Londra. Quando nasce, il 15 maggio 1953, infatti, gli abitanti della cittadina inglese ancora non sanno che di lì a una decina d'anni e fino ai giorni nostri si prepareranno a ospitare ogni estate uno dei festival musicali più celebri del mondo intero, il Reading Festival, appunto. Padre medico e madre casalinga, Mike è il più piccolo di tre fratelli. La sua ha tutte le carte in regola per essere un'infanzia tranquilla, senza scossoni di alcun tipo. La passione per la musica, però, esplode con una potenza devastante, già all'età di 7 anni. Gli basta intravedere in TV il virtuoso Bert Whedon per decidere di assillare il padre e convincerlo a comprargli una chitarra. La musica diventa ben presto il passatempo preferito, nonché il rifugio che gli permette di estraniarsi da una situazione familiare felice solo all'apparenza, come lui stesso a raccontarci. Mi sono inventato un mondo intero fatto di musica, perché era il solo in cui io potessi veramente esistere. Era lì che scaricavo tutte le mie frustrazioni ed era lì che fuggivo quando la realtà normale mi soffocava. La forza della mia musica è proprio questa. Risiede nel fatto che essa rappresenta una questione di vita o di morte. Ho dovuto creare quel mondo appositamente per viverci dentro. Potevo controllarlo perché l'avevo creato io. L'idillio familiare, costituito da un padre stimato professionista e da una madre che si occupa della casa e dei suoi 3 bambini, è tale solo di facciata. La signora Oldfield, in realtà, è frustrata e infelice, afflitta da crisi depressive e ormai abituata ad affogare i dispiaceri nel gin. Mike, il più piccolo e fragile dei fratelli, è quello che risente di più delle terribili lacune materne. Il difficile rapporto con quella che invece dovrebbe essere la sua roccia e la sua ancora di salvezza contribuisce in maniera schiacciante alla creazione di una personalità introversa, schiva, pressoché ingestibile. La musica diventa il suo asilo, la sua compagna di giochi. Niente sembra più poterlo distogliere dal groviglio delle note su un pentagramma. Abbandonate prima la famiglia e poi anche la scuola, che della famiglia era solo una rappresentazione più crudele, per giunta popolata di estranei, Oldfield si concentra sull'unica cosa che sia in grado di dargli qualche soddisfazione. Comincia dunque a suonare nei club e dà vita al duo folk Sally Angie, insieme alla sorella Sally. La coppia inciderà 2 45 giri e un album dal titolo Children of the Sun, senza però ottenere alcun successo. I due si separano e ognuno va per la sua strada. Mike sceglie di formare una rock band a 4 elementi. Si chiamano Barefoot e si esibiscono rigorosamente a piedi nudi, da cui il nome. Mike suona una splendida Fender Telecaster appartenuta un tempo a Mark Bolan, chitarrista dei T-Rex e fondatore, secondo molti, del cosiddetto glam rock. Quando Mike ha la sua Fender in mano, tutto il resto del mondo sparisce. E anche tutto il resto della band, a dire il vero. I Barefoot, formatisi nel febbraio del 1970, non sono infatti destinati a sopravvivere. Il genio musicale di Mike è soverchiante e gli altri membri non sono all'altezza. Ma il talento non basta per pagare le bollette. Mike ormai vive da solo e ha bisogno di soldi per mantenersi. Vivevo in un appartamento minuscolo, in una zona non troppo carina, a nord di Londra. Avevo un lavoretto, facevo il bassista. Mike mette la sua bravura a servizio di The Whole World, band bisognosa di una nuova linfa vitale. Durante la permanenza nel gruppo, Oldfield ha modo di stringere amicizia con svariati altri musicisti addetti ai lavori e vede la sua fama di straordinario chitarrista crescere al punto da cominciare, seppur timidamente, a pensare a un suo album solista. Ma è ancora troppo acerbo per buttarsi da solo nel duro mondo della discografia. Sarà un avvenimento cruciale a dargli la spinta definitiva verso un nuovo universo creativo e compositivo. Armeggiando con un registratore prestatogli da Kevin Ayers, leader della nuova band in cui milita, Mike copre quasi per caso la testina di cancellazione e riesce a effettuare delle sovraincisioni che gli spalancano un nuovo, esaltante mondo di possibilità compositive. In quegli stessi giorni, poi, ha la fortuna di trovarsi con la sua band in una sala prove dei celeberrimi Abbey Road Studios, il che gli consente di sfruttare un ricco arsenale di strumenti per arricchire le scarne tracce che aveva cominciato da qualche tempo a registrare. Lentamente inizia a prendere forma nella sua testa e su svariati nastri magnetici una sorta di sinfonia composita, sfaccettata, perfettamente intonata alla complessità della figura di Mike. Ero concentratissimo. Mettevo tutta la mia attenzione e la mia energia emotiva e spirituale, oltre a quella fisica, in quello che stavo facendo. Uno sforzo compositivo immenso, che progredisce di pari passo con il talento strabordante del giovane Mike. Pian piano una demo prende finalmente forma ed è proprio costituita dalle note che state ascoltando. Si tratta di un progetto che nel corso della lavorazione assumerà svariati nomi, tra cui Breakfast in Bed e Opus One, prima del definitivo Tubular Bells. Una vera e propria sinfonia multitraccia, un coacervo di melodie e sensazioni, frutto dell'immenso talento polistrumentista e visionario di Mike Oldfield. Le doti non gli mancano di certo, ma non basta. Serve anche un bel po' di fortuna. Ed è proprio di quella che Mike, armato dei nastri della sua demo, inizia ad andare in cerca. Oldfield propone la demo tape di Tubular Bells a varie case discografiche e quel che ottiene è una lunga e inesorabile serie di rifiuti e porte in faccia. I discografici sono spaventati dalle scarse possibilità commerciali di un album interamente strumentale, contenente decine di minuti di musica decisamente atipica per un pubblico, quello a cavallo tra gli anni 60 e 70, abituato ai ruggiti delle rock band. 50 minuti di rapsodia strumentale, concettualmente molto più affini a una sinfonia di musica classica, che non alle canzoni che scalano ogni settimana le classifiche delle vendite. Nessuno si mostra interessato al lavoro pur magnifico di Oldfield. Nessuno, o quasi. L'ho incontrato che era un teenager, stava cercando di incidere delle cose. Era già un po' che cercava qualcuno che credesse nelle sue idee musicali. La voce che avete appena sentito è quella dell'uomo che rappresenta la vera svolta nella carriera di Oldfield. Mike, infatti, impossibilitato a registrare seriamente e per intero il suo lavoro, continua a guadagnarsi da vivere come può, suonando la chitarra per il musical Hair, il mandolino per il musical Some Like It Hot e il basso per il cantante soul Arthur Lewis. Ed è proprio al seguito di Lewis che Oldfield è invitato ad effettuare alcune registrazioni presso lo studio The Manor, di proprietà dell'uomo che da questo momento in poi cambierà per sempre la propria vita, oltre a quella di un timido musicista incompreso. Quest'uomo, intraprendente, smaliziato, ha giusto un paio d'anni in più di Oldfield. In lui si uniscono il coraggio delle proprie idee e l'incoscienza dei vent'anni. Un mix esplosivo, se si tratta di diventare qualcuno. Questo qualcuno risponde al nome di Richard Branson. Richard Branson. Branson ha appena costruito, sotto consiglio degli ingegneri del suono Tom Newman e Simon Hayworth, il Manor Studio, tempio della registrazione discografica, con il quale spera di poter un giorno non troppo lontano scoprire e lanciare sul mercato nuovi talenti musicali. L'amichevole atmosfera che si respira al Manor riesce a smuovere persino il timidissimo Oldfield, che trova incredibilmente la forza di proporre il suo prezioso nastro a Newman e Hayworth. I due, fin dal primo ascolto della demo tape, rimangono molto colpiti e decidono di sottoporre il materiale a Branson in persona. Richard ne è entusiasta, ma lo stesso non vale per gli innumerevoli discografici che contatta appositamente nel tentativo di far conoscere il lavoro di Oldfield. Una casa discografica, non ricordo nemmeno quale, disse che la sua era spazzatura autocompiaciuta. Branson non è un discografico e benché il suo entusiasmo per la demo di Tubular Bells sia genuino e straripante, non c'è molto che lui possa fare per convincere qualcun altro a sposare le sue tesi. La demo tape sulla quale Oldfield continua a lavorare alacremente in privato e nei ritagli di tempo è costretta a restare ancora congelata, perché Branson non possiede né i soldi né l'esperienza necessari per la sua pubblicazione. Ma non sempre i soldi e l'esperienza sono la chiave per ottenere quello che si vuole. Quello che serve è il gusto romantico e sconsiderato, amore per il rischio. E Richard crede che la demo di Tubular Bells sia una di quelle cose per cui nella vita vale decisamente la pena rischiare. Su precisa indicazione di Branson, il Manor Studio viene finalmente attrezzato con tutti gli strumenti necessari e messo a completa disposizione di Oldfield per un'intera settimana, tempo in cui il musicista inglese riesce a realizzare la prima facciata dell'album suonando da solo oltre 20 strumenti diversi e facendosi aiutare solo in rarissimi casi, come ad esempio per la batteria e i cori. Vengono effettuate più di 2000 sovraincisioni, così tante che il nastro finale è talmente usurato che rischia di rompersi più volte. La tensione per quest'impresa titanica è altissima, ma Branson non teme. È certo che il prodotto finito stavolta farà gola alle case discografiche. Ancora non sa che le cose non andranno esattamente così e che la casa discografica per l'occasione sarà costretto a costruirsela da solo. Come on. All right. Destini incrociati. Destini incrociati è a Shipton-on-Sherwell, cittadina inglese in cui si trovano i Manor Studios, sale di registrazione nuove di zecca dove Mike Oldfield ha appena finito di registrare Tubular Bells, opera titanica a metà tra la sinfonia classica e il rock progressivo. La chance di incidere il suo capolavoro gliel'ha data Richard Branson, anche lui appena ventenne e appassionato di musica. Branson non è un musicista, ma di musica ne mastica parecchia, e da quando è poco più di un adolescente che fa la spola tra il continente e la sua Inghilterra in cerca di dischi da acquistare e poi rivendere prima per corrispondenza e poi a Londra nel suo negozio di Notting Hill. Gli affari gli vanno alla grande, il fiuto di certo non gli manca e la sua azienda, la neonata Virgin, ha tutte le carte in regola per rivelarsi un business florido e duraturo. Vendere dischi gli piace, ma non gli basta. Il suo sogno è quello di produrli e l'incontro con Mike Oldfield gli spalanca improvvisamente questa possibilità. Eppure, per puro caso, mi sono imbattuto nella neonata Virgin Records, che era proprio agli albori, e in Richard Branson, che aveva già quella personalità formidabile. Mike Oldfield esce dal suo bozzolo e diventa farfalla seguendo i consigli di Branson. Ma i buoni consigli e la faccia tosta di Branson non bastano per convincere il mercato discografico a puntare sulle pur splendide lucubrazioni musicali di un artista magnetico e introverso. Se le case discografiche, nonostante gli innumerevoli tentativi prima di Oldfield e poi di Branson, continuano a mostrarsi riluttanti, non resta che una soluzione: costruirsi una casa discografica su misura. L'idea, naturalmente, è del temerario Richard Branson. Mi sono trovato per le mani questo disco composto da un teenager. Ho pensato che fosse splendido. Ho cercato di prendere contatti con 6 diverse case discografiche, ma nessuno mi ha dato retta. Allora mi sono detto, sai che c'è? Che la apro da solo la casa discografica, così la gente avrà la possibilità di ascoltare questo capolavoro. Ed è stato un successo strepitoso. Naturalmente sto parlando di Tubular Bells di Mike Oldfield. Da venditore di dischi per corrispondenza, con la sua Virgin Mail Order Record Company, a futuro magnate della discografia. Il percorso umano e professionale di Richard Branson infonde speranza in tutti coloro che credono, anche solo lontanamente, che la meritocrazia esista per davvero. Io discendo dal capitano Scott, quello dell'Antartide. I miei genitori erano amici di Douglas Bader, che pilotando il suo aereo della RAF perse entrambe le gambe. Non è da tutti poter vantare antenati avventurieri e certamente la genetica non mente se si tratta di nascere armati di coraggio. Ma a parte il corredo cromosomico, anche l'educazione ha una certa importanza nel forgiare il carattere di un avventuriero. La madre di Richard Branson, ad esempio, ha sempre pensato fosse importante che i suoi figli non guardassero mai la televisione, avessero i piedi ben piantati per terra e imparassero molto presto la squisita arte dell'arrangiarsi per conto proprio. La leggenda racconta che all'età di 4 anni la mamma abbandoni Richard in un campo un po' distante da casa, dicendogli semplicemente: «Bene, Richard, ci vediamo per cena». Un ottimo esercizio per affinare intraprendenza e spirito di sopravvivenza. Non solo a casa, ma anche a scuola, Richard deve esercitarsi come se fosse a un corso di sopravvivenza. Gli studi, infatti, rappresentano per lui un vero e proprio incubo. Beh, la dislessia è un problema, specialmente quando vai a scuola, perché ti mettono davanti i fogli per fare i compiti in classe e tu non sai nemmeno da che parte cominciare per rispondere alle domande. Richard è dislessico. E il fallimento dei test a scuola per lui è sempre occasione di mortificazione. Dislessico non significa certo stupido, ma gli strumenti utilizzati dagli insegnanti sono del tutto incapaci di cogliere lo spirito ambizioso e l'estro irrefrenabile che invece sostanziano la personalità di Richard e costituiscono i presupposti irrinunciabili del successo. Credevano semplicemente che tu fossi uno stupido e ti mettevano in fondo alla classe. Ma se c'è una cosa bella della dislessia è che ti fa capire che devi darci un taglio con le cose superflue e dedicarti solo a quelle in cui sei bravo. Quindi ho smesso di preoccuparmi della scuola e mi sono concentrato sul mio giornale, sul conoscere persone, intervistarle. Ho trovato così la mia via nella vita. È proprio in quegli anni, infatti, che il talento di Branson inizia a mostrarsi. E lo fa attraverso le pagine di un giornale. A 16 anni, Richard fonda il magazine Student, vera e propria bibbia studentesca, ricca di consigli per la sopravvivenza, oltre che di gustose interviste alle rockstar inglesi, tanto che da pubblicazione amatoriale la rivista si trasforma ben presto in un vero e proprio fenomeno editoriale. A dirla tutta, senza il sovvenzionamento dei genitori, il ragazzo non sarebbe arrivato lontano. La signora Branson investe nell'operazione ben 4 sterline, all'incirca 6 euro, ed è proprio da questo importante gruzzolo che tutto ha inizio. La passione per la musica, la stessa che lo spinge a inseguire i musicisti per intervistarli sulle pagine della sua rivista, lo sprona anche a varcare i confini del suo paese. Attraversa la Manica, compra casse di dischi rimasti invenduti nei negozi tedeschi, con particolare attenzione per gli esemplari del cosiddetto Krautrock. Riempie il bagagliaio e torna in Inghilterra per rivenderli a prezzi stracciati grazie alla sua nuova impresa commerciale. Stiamo parlando naturalmente della Virgin Records. Avevo 16 anni e me ne stavo lì seduto a fantasticare su come avrei chiamato un'azienda attiva in campo musicale. E stavo lì con le ragazze che lavoravano con me e loro ridacchiando hanno cominciato a dire che erano tutte vergini. Ed è così che è nato il nome. Un magazzino al piano superiore di un negozio di scarpe è trasformato in un deposito e successivamente in un negozio di dischi economici. L'iniziativa avrebbe dovuto intitolarsi Slipped Disc, ma Virgin è un nome decisamente più azzeccato. Credo che la cosa più bella fosse che eravamo veramente vergini per quanto riguardava il business. Giovani, coraggiosi e vergini. Questa è la ricetta perfetta che lancia sul mercato la Virgin Records. Un'azienda dedicata alla vendita, prima per posta e poi dal vivo, di dischi e nastri musicali. Nel 1972 Branson trasforma un sottoscala di Shipton-on-Sherwell, nella verde contea dell'Oxfordshire, in uno studio musicale attrezzato per ospitare i nuovi talenti e le loro molteplici, folli sfaccettature, mentre la ragione sociale della Virgin viene trasformata in una vera e propria etichetta discografica. In un'intervista risalente ai primissimi anni 70, Richard Branson elenca le finalità del suo nuovo business. La Virgin Records sta aiutando centinaia e centinaia di giovani in questo paese a comprarsi i dischi a prezzi più economici rispetto a qualunque altra rivendita. Allo stesso tempo vorremmo cominciare a dare spazio a nuovi gruppi musicali, gruppi che sono stati rifiutati da altre case discografiche. È giusto che anche loro abbiano la possibilità di provarci. E il primo fortunato ad averne la possibilità è il giovanissimo Mike Oldfield, che incide il suo Tubular Bells proprio negli studi voluti da Branson a Shipton-on-Sherwell. Nessuna casa discografica si mostra interessata al disco ed è proprio sull'onda dell'ennesimo rifiuto che Richard Branson concretizza quello che fino a quel momento era soltanto un sogno. Si passa così dalla potenza all'atto, fondando una nuova casa discografica, la Virgin Records. Straordinario, vero? Specialmente se pensi che tutte le case discografiche mi avevano risposto picche. Mike Oldfield è ancora stupito nel ricordare quei momenti fondamentali e fondanti in tutte le accezioni possibili. Da questo momento in poi, entrambi, sia Oldfield che Branson, sono pronti a conquistare i cuori di milioni di fan e di milioni di consumatori. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1973, anno della pubblicazione di Tubular Bells di Mike Oldfield sotto l'etichetta Virgin, fondata da Richard Branson. Branson, esperto di musica, convinto del talento di Oldfield e stupito della riluttanza degli addetti ai lavori nell'accordargli fiducia, decide di passare all'azione. Se nessuna casa discografica ha il coraggio di pubblicare Tubular Bells, lo farà lui stesso. Il 1972 assiste ai natali della Virgin Records e Tubular Bells, nel maggio dell'anno seguente, è il primo disco mai pubblicato sotto l'egida di Richard Branson. È proprio lui a parlarci di quei momenti convulsi ed esaltanti. Fu un successo incredibile e Tubular Bells iniziò a vendere così tanto, anche senza pubblicità, che non riuscivamo a star dietro alla domanda crescente di copie del disco. Entro la fine dell'anno, Tubular Bells vende 5 milioni di copie, di cui uno solo in Inghilterra. Anche oltreoceano si accorgono in fretta del fenomeno Oldfield. Il regista statunitense William Friedkin, già autore di un capolavoro come Il braccio violento della legge, crede che l'ouverture di Tubular Bells sia perfetta come colonna sonora del suo nuovo film. Lei ha qualche credenza religiosa, signora McNeil? No. Sua figlia neanche? No. Perché? Ha mai sentito parlare di esorcismo? Ecco, è un singolare rito formale con il quale un rabbino, un prete, cercano di scacciare il cosiddetto spirito maligno. Oggigiorno non è più praticato, esiste ancora però tra i cattolici che lo tengono nascosto come fosse un parente scomodo. Ma in realtà a volte ha funzionato, anche se naturalmente non per i motivi che credono loro, ma solo per un fenomeno di forza di suggestione. È la convinzione della vittima di essere posseduta che le provoca quello stato, e allo stesso modo la convinzione nel potere dell'esorcismo può farlo sparire. State dicendomi di affidare mia figlia a qualche stregone? È così? Non a uno stregone, bensì a un esorcista. Il film più terrificante di tutti i tempi, come annuncia la sua locandina. Avrà incassi astronomici, vincerà 2 premi Oscar e sarà riconosciuto come il secondo lungometraggio più spaventoso della storia, dietro solo a Shining di Stanley Kubrick. E avrà il merito di far risuonare in tutto il mondo le inquietanti, fascinose note di Tubular Bells. Io mi sono sempre sentito quello strano. Il mondo interiore di Mike Oldfield viene proiettato sulla ribalta del mondo e l'autore, a dirla tutta, sembra non gradire questa fama travolgente e improvvisa. Non amavo particolarmente avere i riflettori puntati addosso. Ero molto insicuro allora. Mi comprai una casa in Irlanda e vissi là, soffocando il telefono sotto montagne di cuscini per non dover sentire quando squillava. Alla Virgin Records sono tutti felicissimi, Richard Branson per primo. Si iniziano a pensare modi per promuovere il disco in giro per il mondo, ma nel frattempo è sorto un problema. Mike Oldfield è letteralmente sparito e i vertici della Virgin devono confrontarsi con l'incubo di avere un artista in cima alle classifiche, ma troppo terrorizzato per rilasciare interviste, per suonare dal vivo, per viaggiare in giro per il mondo. Il mondo della musica pop... Non trovate che sia un po' stupido? Non credo di volerne far parte sul serio. Oldfield, da bravo artista introverso, vorrebbe soltanto starsene chiuso in casa o in studio a strimpellare e comporre nuova musica. Per fortuna, grazie all'energia e al coraggio che Branson gli trasmette nel corso dei mesi e degli anni in cui collaborano, Oldfield riesce a uscire dal bozzolo e a sfornare ripetuti successi per l'intero corso degli anni 70. Un crescendo di ottime produzioni che nel 1983 culmina proprio con la hit che state ascoltando, la celeberrima Moonlight Shadow, che scala un po' dovunque le classifiche di vendita e vanterà nel corso dei decenni innumerevoli cover. La La Virgin di Richard Branson, galvanizzata dal successo ottenuto al primo colpo con Tubular Bells, passa i due decenni successivi a scovare, scritturare o in certi casi anche solo a rilanciare artisti di grande successo, tra cui spiccano certamente i controversi Sex Pistols, senza però dimenticare l'importanza ricoperta anche da nomi come Culture Club, Phil Collins, Brian Ferry, Belinda Carlisle, Genesis, Janet Jackson e da ultimi, ma non per importanza, i giganteschi Rolling Stones. Nuove sfide però si affacciano all'orizzonte per l'infaticabile e indomito Branson. Possedevo una compagnia discografica con ramificazioni in tutto il mondo e volavo con decine di diverse compagnie aeree. Le odiavo tutte. Se eri fortunato, ti tiravano addosso una coscia di pollo per cena e il personale era sempre incazzato, non rideva mai. Allora mi sono detto, sai che c'è? Vediamo se riesco ad aprire una compagnia aerea come dico io. Proprio come era accaduto nei primi anni 70, quando aprì quasi dal nulla una casa discografica, giusto una decina di anni più tardi Branson decide di fondare una nuova linea aerea, migliore di quelle esistenti. Il volo inaugurale della Virgin Atlantic decolla il 22 giugno 1984 dall'aeroporto londinese di Gatwick, diretto a quello newyorkese di Newark, nel New Jersey. Un bel po' di intraprendenza e una flotta di Boeing 747 di seconda mano dismessi dalle altre compagnie. Ecco la ricetta del nuovo successo di Branson, il quale, a dire il vero, non ha nessuna intenzione di restarsene lì seduto sugli allori. Gli esperti di pubbliche relazioni dicono che se sei il proprietario di una linea aerea, l'ultima cosa che dovresti fare è metterti in testa di costruire un pallone aerostatico e salirci sopra per poi atterrare nel bel mezzo dell'oceano. Anziché restarsene con le mani in mano, Branson insegue nuovi successi. Ad esempio, solca l'Atlantico a bordo del proprio pallone aerostatico, stabilendo per ben due volte il record mondiale. Un ulteriore primato riguarda la velocità con cui è stato in grado di attraversare l'oceano sfrecciando sulla sua barca, la Virgin Atlantic Challenger 2. Sua Maestà, la Regina Elisabetta, nel 1999 lo ha proclamato baronetto e da allora è autorizzato a fregiarsi del titolo di Sir. Ma piuttosto che farsi riverire con titoli dal sapore antico, preferisce guardare al futuro. All'inizio del nuovo millennio sposa la causa ambientale dell'ex vicepresidente americano Al Gore e porta avanti insieme a lui la battaglia per l'eliminazione dei combustibili fossili. Il prossimo passo? Sulla Luna, naturalmente, a bordo di uno shuttle Virgin Galactic. Penso di poter davvero costruire una compagnia aerea spaziale. E se ad affermarlo è Richard Branson, beh, non possiamo che crederci.